Inizia ora Music for Youth. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Ripiomba l'autunno sulle nostre esistenze. Music for Youth, Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102.2, Daniele Terzarioli, Alvise Favotto di nuovo in studio con voi. Buonasera a tutti, cadono le foglie e rimangono su solo che cosa? Le nostre teste, dovevano cadere durante quest'estate come i fighi. O come un qualsiasi ghigliottinato ai bei tempi del direttorio francese, e invece no, continuiamo a parlarvi. Bentornati su Music for Youth. Forse c'è chi ci ascolterà per la prima volta, siete disfortunati. A, perché vi siete beccati la vecchia non vi siete beccati la vecchia stagione, e B, inventati tu un motivo nuovo, Favotto. Siete degli sfortunati perché ci sentite in sostanza, ma io mi chiedo, anche voi, vecchi ascoltatori, cosa state facendo qui? Cioè, ancora il tempo è bello? Ancora le foglie sono gialle? Io andrei qui in grava a fare delle foto, potessi. Ti volevi buttare su dei grumi di miniere di carbone come hai fatto in Norvegia, che poi avremo anche modo di dire che cosa abbiamo fatto noi quest'estate? Sì, esatto. Io e il qui presente Lele abbiamo fatto una notevole vacanza, di cui vi diremo. Anche questa puntata, come l'ultima della scorsa edizione, è molto autoreferenziale, ossia non c'è l'ospite, ce la giochiamo io e Terzarioli. È vero, Favotto, perché mi ero dimenticato che in quanto puntata di apertura della nuova stagione forse va ricordato quali sono le nostre abitudini. Certamente. Ogni settimana noi abbiamo qualcuno ospite in codesti studi, sede staccata di Radio Sherwood e Radio Sandona, molto autonoma. Noi ci teniamo perché partiamo a Radio Sandona 102.2 e ci appoggiamo a Radio Sherwood 97.8 per arrivare sino a voi bei ragazzi giulivi che ci ascoltate in ufficio alle 17.30 di ogni martedì. Esatto. E poi su Radio Sandonà invece occupiamo le vostre serate al mercoledì sera. Il mercoledì sera alle 22, a meno che non ci abbiano cambiato di palinsesto senza avvertirci. In quel caso fanno solo che bene, tanto noi come al solito siamo sempre le ultime ruote del carro, quelle che vanno cambiate. Esatto, nel caso non ci troviate in palinsesto, contattate chi l'ha visto, riesumeranno la Raffai e ci troverà almeno lei. Noi siamo quelli vestiti da Gabibbo all'Ipercop di solito. Se devono partire dalle telefonate dei mitomani, diteci che ci avete trovato in una scarpata in Baviera o preferibilmente su un iceberg alla deriva della in Groenlandia. Io spero che nel mentre noi siamo su un iceberg alla deriva, entrambi abbiamo una maschera da Paperino come il famoso mostro di Dusseldorf. Detto questo, andiamo avanti, e ci sono delle grosse novità in questo programma. Non solo che noi ci vestiamo da Gabibbo per fare le nostre attività che più ci prediligono, in un certo senso, più ci prediligono, non è italiano comunque, sappiatelo, tipo l'andare in biblioteca o il girare per Sandonà come dei qualunque sfaccendati. E con le mani dietro la schiena, tra l'altro. Esatto, dimentichi sempre questa cosa qui. La classica andatura del pensionato. No, noi, grazie alle esili manine di quella sagoma che ho di fronte, abbiamo un nuovo blog. Abbiamo un nuovo blog che in realtà blog non è, cioè non sappiamo neanche noi come chiamarlo. Insomma, partiamo dal fatto comunque che abbiamo non un blog, ma addirittura due. Quello nuovo non è quello che vi dirò adesso. musicforyouth.wordpress.com è il solito indirizzo al quale vi potete collegare per scaricare qualsiasi tipo di podcast, visionare le playlist di questa trasmissione e di tutte le passate. Andatevela a recuperare, giusto per avere idea di come noi ci regoliamo dal punto di vista musicale durante quest'ora che Sherwood e Radio Sandonà ci danno a disposizione, ora d'aria per i carcerati. Passiamo poi all'altro blog, che è Music for Youth, tra l'altro YOUTH, per chi fa voto? Per i non anglofoni. Si diceva musicforyouth.tumblr.com. E lanciamo un contest sulla pronuncia di Tumblr. Tumblr? Per noi è Tumblr o Tumblr o Tumblr o Tumblr o Tumblr o Tumbre. O esiste anche una pronuncia tedesca, tu che sai qualcosa di Deutsch. Tumblr. Ecco, fatecelo sapere. Tutto questo materiale spazzatura va nel lato B-side di Music for Youth, che è appunto il blog su Tumblr. Bene, detto questo, andiamo a farvi sentire un brano rappresentativo per nulla di quello che è la musicalità di questo programma. L'altro anno, cari ascoltatori giulivi, si era detto che si era partiti con i Kasabian. No, non si era detto assolutamente, l'avevamo detto io e te, Favotta, microfoni spenti. Esattamente. No. Si era partiti con i Kasabian giusto per dare l'idea di come siamo messi dal punto di vista musicale all'interno di quest'ora che ci è dato modo, in cui ci è dato modo di esprimere le nostre varietà mentali molto limitate. Molto limitate e discutibili. Sì. Quest'anno cosa facciamo? Partiamo con i Kasabian? Assolutamente no, perché non ci piace ripeterci. Ma di più, non vi diamo modo di capire quali sono i generi che noi affrontiamo durante quest'ora. Lo capirete poi dopo questa canzone. Che canzone di apertura abbiamo scelto? You Never Can Tell di Chuck Berry. Ora dite, chi è Chuck Berry? Chuck Berry ce lo dice chi è? Favotto. Chuck Berry è una persona a tutto tondo, nel senso che era... o è enorme. Non è morto, cioè, ho capito, importa. Che stiamo per giocare al fantamorto e il 2 novembre si avvicina a grandi passi. Comunque, ma la questione non è la mia domanda era non è se è morto e vivo, quanto hai usato Slim Fast come panata o Marisa Laurito. Esattamente. Che lo Slim Fast non l'ha usato, ma si è magnato anche con la carta. Esatto, anche proprio la lattina. In pratica, Chuck Berry è l'inventore del rock and roll. Noi abbiamo scelto una canzone che si chiama You Never Can Tell, che, a parte ricordare la pubblicità dei Pavesini, dov'è, Terzariol? Dov'è? È in Pulp Fiction, che noi abbiamo rivisto. In Pulp Fiction. Quando è che l'abbiamo rivisto l'ultima volta? In autobus in Norvegia. Per esatto. L'ennesima volta, cos'è, la settima? Sì, molto probabilmente. Ed è sempre come la prima volta, cioè, sì, sì, è sì. Come sempre il primo giorno di scuola alle elementari. La gente lacrima quando usano questa canzone, la usano nel momento in cui John Travolta fa quel gran balletto. Esatto, con Uma Thurman. È una scena che vi dovete beccare, seconda all'interno di quel film, solo al signor Wolf. Oh, assolutamente. Chi sì. È il signor Wolf? Dicelo sempre tu. Il signor Wolf è quello che risolve i problemi. Tra l'altro, andatevi, scrivete, andate YouTube, fate quel cacchio che vi pare, scrivete signor Wolf Pulp Fiction, vedrete che se si apre la scena giusta, lui riceverà una telefonata ed è un party. Sono tutti vestiti strabene, il problema è che sono le 8:30 di mattina e lui deve andare a recuperare il cadavere di un nero con la testa sparata. Voi non siete felicissimi che Music for Youth sia ricominciato? Io sì. Anche perché questo discorso non sta portando da nessuna parte. Bene, se posso lanciare questa canzone o se vuoi lanciarti tu dal balcone. Esatto, ma lo faccio immediatamente dopo emulando Pessotto. Chuck Berry, You Never Can Tell, 102.2 Radio San Donato, 97.8 Radio Sherwood. Siete già stati in carcere, quindi occhio che arriva. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can. Finished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la E questa era You Never Can Tell di Chuck Berry. Bentornati su Music for Youth. Mi hanno già incasinato per la prima volta. Io sto mangiando dei pavesini, quindi continua tu. Siamo su Radio Sherwood 97800 e Radio Sandonà 102.2. Questa è l'ora d'aria di Daniele Terzariola e Elvise Favotto con il loro appuntamento settimanale con la radiofonia. Musica per la gioventù, si diceva. Ora, questo è, abbiamo detto, Pulp Fiction, un film che noi vi consigliamo assolutamente con calore. Sì, sì, con calori di fianco, quello che giocava con l'Udinese, che poi ha allenato il Portoguaro. Cioè, ogni volta lui si siede sul nostro divano e ce lo guardiamo assieme. Calori. Salutiamo a Calori e i nostri parenti dal Belgio. Esatto. Abbiamo anche noi dei calori, sì. È l'andropausa, forse. Dal Belgio alla Russia, la nostra seconda canzone. Perché ho detto questa cosa, Favotto? Perché andiamo ad ascoltare adesso Farewell to the Fairground, che è uno dei singoli estratti dal lavoro dei White Lies. Vuoi dare un nome al lavoro e non te lo ricordi perché non hai il foglietto davanti? Esattamente. Te lo dico io, To Lose My Life. Esattamente, quello nello stesso lavoro da dove vi avevamo già fatto sentire Death, e non è poco quella canzone lì. Abbiamo quest'altro singolo, Farewell to the Fairground. Chi sono i White Lies? Beh, poche porcate, i White Lies sono un gruppo assolutamente godibile, da quel della Terra d'Albione. Hanno un sound che vi ricorda tantissimo gli Editor, per qualcosa molto meno gli Arcade Fire e tutta la wave anni 80, partendo dai Joy Division, passando per i New Order e andando a finire a Echo and the Bunnymen, per fare un esempio. E il loro lavoro è assolutamente convincente. Sì, andatevelo ad ascoltare, sì, ci sono, sì, alcune buone tracce tipo Unfinished Business. Esatto. La già citata Morte. La già citata Morte, in cui si dice: questa paura sarà attaccata, rimarrà attaccata su di me come ritornello. E in quel momento Ti si aprono scene con cappotti appesi. Comunque, vabbè, detto questo, stavamo dicendo Farewell to the Fairground è stata registrata dove? Non è tanto la canzone quanto il video. A Nickel, infatti si diceva, dall'Inghilterra, no, dal Belgio, passando per l'Inghilterra alla Russia. Nickel, una città tra le più inquinate di questo globo, cioè una cosa che non potete nemmeno immaginare. Volete andare a prendere del sole? Non fatelo. Sì, oppure fatelo ma con un ombrellino di amianto. Sì, possibilmente di amianto o di qualsiasi altra sostanza che possa proteggervi dalle piogge acide che cadono in quei bei territori che la Lonely Planet consiglia con un 5 su 5. Esatto, in pratica si dice che in questa Nickel, nel momento in cui piove e nel momento in cui l'inglese tipico apre l'ombrello, io infatti mi immagino qua Charles Cave, che è il bassista dei White Lies, che si apre il suo ombrellino nero e l'ombrellino nero viene bucato dalla pioggia acida. Tu, Harry McVeigh, che sei il cantante, ci avrai registrato il video, ma voglio vederti lì a fare 365 giorni all'anno con un ombrello ridotto come un Emmental, mentre con l'altra manina tiri su quel Nickel che sicuramente non ti ha dato i soldi come l'album. Esatto. E poi vienicela a raccontare qui in studio da noi. Ecco, quello penso non lo farà mai. Non so, cioè, ho un mezzo dubbio. Lei, avendo esaurito queste minacce che non porteranno a nessuna parte, perché figurati se i White Lies ci ascoltano, anche ci danno neanche un centesimo, per la carità, si trovano per strada. Anche perché io in queste note da Wikipedia non vedo che nessuno di questi 4-5 sappia l'italiano. Partiamo? Perfetto. Io direi che possiamo partire. Ci penso io. Ci penso io tu. questa volta. Radio San Donà 102.2, Radio Sherwood 97.800, dall'album To Lose My Life dei White Lies, questa è Farewell to the Fairground. Farewell to the Fairground, RSD 102.2, Radio Sherwood 97.800, bentornati, questa è Music for Youth, Favotto, è il tuo turno. Lele, è inutile che ancheggi con quelle sopracciglia, io non ti capisco. Stavo anche muovendo il parrucchino. Ora, mentre il quartetto inglese qui sfuma in sottofondo e ripartono i Gorillaz, noi di che cosa vi andiamo a parlare in questa oretta di solitaria? Vi andiamo a parlare delle nostre vite. Cosa abbiamo fatto quest'estate? Come avete potuto potuto vedere dal blog www.musicforyouth.wordpress.com, se non ci sono io qui. Come avete potuto vedere in quel blog lì, io e il qui presente Lele, più il qui presente Lele rispetto alla mia persona, siamo stati a una serie di concerti discretamente interessanti quest'estate. Tra cui andiamo a ricordare Badly Drawn Boy, soprattutto per una questioni di alcol, un'enorme quantità di Havana Cola che riesce ad ingerire senza star male. No, senza star male. Tra l'altro, povero Cristo, si era anche offerto di suonarci una canzone a me e a te. Sì, ma è stato meraviglioso, perché ci siamo avvicinati e gli abbiamo detto Badly, perché ovviamente se non sai il nome proprio lo chiami Badly, secondo me. Comunque, Badly, tra tutte le canzoni che hai fatto stasera, non hai fatto la nostra preferita. Qual è la nostra preferita? A Journey from A to B. Bravissimo. E lui ha detto: ah, ma se me lo dicevate, ve la facevo. Quando sino a prima stava per piovere, e ha detto: I'm totally fucked. Quanta meraviglia. E stava per prendere la via dei saluti, perché interrompendo a metà concerto, una persona a prendere un po' con le pinze. Sì, ma comunque io vi consiglio veramente di andarlo a vedere. Sembra un po' di vedere, non lo so, l'orso Yogi con la chitarra, in un certo senso. E anche il berrettino di lana, sì, in qualsiasi stagione. Poi aveva un assistente, Colin, che sarebbe il bubu della situazione, lì con un cestino, questo con le birre in questo caso. E anche, vorrei ricordarti, una camicia in sintetico in cui c'era disegnato, guarda, uno yacht, se ben ricordo bene, e due palme con i cocchi. Sì, è vero, in una specie di stencil bianco, secondo me, è vero? Lo vedevo bene in quei classici villaggi vacanze dove tu paghi, hai il braccialetto, entri, non andateci mai, e se ci siete stati avete tutti i nostri insulti sulla schiena. O anche tutta la nostra stima, perché ci ricorda tanto Miami Vice. Andiamo avanti, e siccome si sta giusto parlando di vacanze, andiamo a parlare della nostra vacanza. Ce la racconteranno anche i Beach House, che è il prossimo pezzo che tra poco andremo a ascoltare. Si titola Norway, e infatti noi lì ci siamo stati. Io e Favotto siamo andati in mezzo al nulla per non fare assolutamente niente. Ore e giorni buttati, torpiloqui infiniti, nessuna forma di contatto con turisti italiani dei quali ci vergogniamo. Vuoi aggiungere qualcosa tu? Sì, in realtà siamo andati in questo posto in cui non c'era niente, in sostanza, chiamate Isole Lofoten. A noi sono piaciute moltissimo, solo non c'era anima viva. Speravamo almeno, cioè, si incontra un alce, un animale caratteristico, o qualcuno che ci sparava col fucile scambiandoci nulla per poiane, non lo so. Nulla, era pieno di cespuglie con dei mirtilli, che tra l'altro i norvegesi non raccolgono, e non capisco come mai. Li raccogliamo noi, non c'è nessun problema, che abbiamo fame e pochi soldi. Esatto. Vabbè, comunque siamo anche stati, per cortesia, ricorda che siamo stati anche a Oslo e a Bergen. Sì, certamente. Oslo comunque è confermato, è la città più ricca, non d'Europa, ma al mondo. Ce l'ho letto l'altro giorno in internet, ti rendi conto? Sì, me ne sono reso conto soprattutto nel momento in cui voglio comprare una mela e mi chiedono 3,50 euro. E io mi chiedo se ho rotto qualcosa. Hai rotto le palle, ecco quello che hai rotto. E infatti adesso deve essere quello. Palle di Natale, tra l'altro. Certo, sì. Quelle che si potevano trovare comodamente nei negozi. Ah sì. Un artigianato di non poco conto. Sì, sì, io vorrei far notare: andate in vacanza 2 settimane con Daniele Terzariol. Per 13 giorni il medesimo Daniele Terzariol vorrà comprare una palla di Natale. Ci torna a casa con quella? Assolutamente no. Ma la scambia con un uccello di vetro da appendere. Da appendere alla tua fronte, se non presenterai il prossimo gruppo, i Beach House, come dicevamo. Beach House, duo del Maryland, credo. Forse solo uno. Forse un altro invece è un ectoplasma. Sono due, per sì, cui sono, abbiamo sono anche due. Esaurito l'internet. È Slimer l'altro, quello di Ghostbuster, immaginavo. È verde e appiccicoso. Beh, si formano nel 2004. In quanto ectoplasmi. Mi vengono delle battute assolutamente ingestibili. Comunque, primo lavoro porta il titolo omonimo. Esatto, omonimo nel 2006, seguito da Devotion. Dico, un ottimo CD, Devotion, che tra l'altro si è beccato la 16ª posizione degli album più belli di non mi ricordo che anno. Non importa, non cincioniamo con queste cose. È vero, anche tanto, andatevi a cercare le informazioni in internet di vostro, che immagino siate ben capaci. Poi a gennaio di quest'anno, il 2010, licenziano Teen Dream. Teen Dream Dream, da cui abbiamo estratto appunto questa Norway, più che altro perché siamo più patriottici e ci andava di parlarvi delle nostre vacanze. So che non vi è interessato nulla e anzi vi stiamo annoiando molto, però vuoi fare Teen Dream? Quali sono le influenze? Beh, le influenze sono le più disparate. Pescano nei 70s e negli 80s, zombies soprattutto, Neil Young, ma anche un po' gli attuali Grizzly Bear. Gli attuali Grizzly Bear, assolutamente, e un certo tipo di elettronica. Devo dire anche che questo Teen Dream è assolutamente convincente, se non altro per la copertina. La voce di lei ricorda un po' quella di Nico di Velvet Underground. Anche Nico, il nostro amico, nel senso di Bustreo. Salutiamo due piani qui sopra il condominio dove noi registriamo. Ciao Nicola Bustreo, ma soprattutto chi salutiamo? Ciao Benedetto Ruggero. Ciao Benedetto Ruggero, è bello riaverti qui con noi. Capirete prima o dopo chi è Benedetto Ruggero quando sarà nostro ospite, ma noi comunque tendiamo a salutarlo ogni 5 puntate perché sennò si sente un po' oscurato. Eh sì, perché altrimenti ti va nell'ombra, in the shadow, senza andare troppo per le lunghe. Questa è Norway e questi sono i Beach House. 102.2 Radio San Donà, 97.8 Radio Sherwood. Beach House dal loro album Teen Dream. Questa era Norway. Siamo tornati in studio, Music for Youth, Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102.2. Favotto, a te la parola, che poi me la rinvii. Certamente. Allora, come si fa con qualsiasi palla, me la prendo io e la ridò a te. Detto questo, andiamo ora a presentare il gruppo, diciamo, gruppo proposta, il disco proposta della settimana. Veramente siamo ridotti come una radio anni 80, cavolo. Cioè. Il disco proposta della settimana, prego. Allora, il disco proposta della settimana è Me and Giuliani Down by the Schoolyard. È true story, una storia vera di te e Giuliani, il sindaco di New York, presumo, esatto. Perché non ho in mente, almeno che non ci siano molti Giuliani Ferrara. Esatto, tutti insieme. Il mio vicino di casa si chiama Giuliano, tra l'altro, lo saluto. Dietro il cortile della scuola, eravate impegnati a smistare della droga dei minorenni, non so, dimmi tu, perché a questo punto con quella faccia non so neanche cosa pensare. Guarda, il migliore spaccio che ho fatto io nella vita è stato delle merendine, sì, in quinta elementare. Con Pacciano. Tra... Esatto. Il tuo famoso compagno di merendine. Eravamo dei compagni di merendine e... circolarità di Music for Youth. Sì, ma infatti da quei tempi mi piace guardare. A me invece piace guardare negli occhi e vederci il vuoto pneumatico. Anche a Pacciani piaceva guardare, ma non solo negli occhi. Comunque... Passiamo a questo disco proposta anni 80 della settimana. Stiamo per presentare i Check Check Check o tre punti esclamativi. Qui si apre una querella sulla quale Favotto potrebbe ricamarci sopra per tre quarti d'ora, ma noi cominciamo a essere lunghi, per cui sì, breve. Il nome Check Check Check qui è assolutamente discutibile, perché è un, diciamo, un escamotage radiofonico chiamarli Check Check Check, quando in realtà il nome si rifà a tre schiocchi di lingua, quindi non facciamoli. Ecco, sapevo io che andava a finire così. Bene, detto questo, i Check Check Check sono un combo californiano. Sacramento, nel senso che vengono da lì, esatto. Non voleva essere un'imprecazione. Sono un combo californiano formatosi mica recentemente, ma già nel 95. Sì, mica cotica questi Check Check. Infatti check. Noi ve li presentiamo anche se sono sulle strade già da tempo. E io li avevo sentiti, se devo dire la verità, in occasione di un singolo che avevano licenziato che si chiama Take Ecstasy With Me, e infatti, cioè, per certe cose ci vuole compagnia, in effetti, e me ne rendo conto. E ora vi facciamo sentire questa Mia e Giuliani, che secondo noi riprende da Mia e Giulio Down by the Schoolyard, che è la celebre canzone poi rifatta anche da Peter, Bjorn e John, che io vi consiglio sempre come gruppo. Tu sai tutte queste cose che mi colgono invece molto molto impreparato. Cosa stavi dicendo mentre io mettevo sui dischi? Che Mia e Giuliani Down by the Schoolyard, il titolo è ripreso da Mia e Julio Down by the Schoolyard, che è un celebre pezzo poi coverizzato anche da Peter, Bjorn e John. Io sono estasiato. Tra l'altro un saluto a Peter, Bjorn e John, che sono vicini di Norvegia, perché esatto, sono svedesi. Esatto, vi consigliamo anche tutta la produzione della casa discografica per cui loro incidono, che è una casa discografica americana che si chiama Wichita Records, per cui incide anche tanta brava gente. Tanta brava gente, il Check Check Check, non so chi li produca, o dimmelo tu e inventatelo e facciamo passare questa cosa come vera. Guarda, così sono su Major, però non ne sono assolutamente convinto. Dal loro secondo album, che è Milf Takes del 2007, che vi consigliamo. Milf Takes, vorrei far notare. Andremo ad ascoltare, per cortesia. Che battute di bassa lega. Mia e Giuliani Down by the Schoolyard. Loro hanno fatto il tempo a licenziare un terzo disco, non vi diciamo il titolo, andatevelo a comprare in un qualsiasi download store in internet, dopo aver fatto un salto sul nostro blog musicforyouth.wordpress.com. intanto ascoltatevi Check Check Check. Soul. But what I like to know, schedule is strong. Al 40esimo minuto della ripresa, Alvise Favotto, Daniele Terzariol rientrano in studio. Music for Youth, questa era Me and Giuliani in Down by the Schoolyard, A True Story dei Check Check Check, o tre punti esclamativi. Check Check Check, che ci tengono compagnia in questa serata San Donatese. E anche più. E anche padovane in qualche modo. Tra l'altro non solo serata, ma anche mattina, pomeriggio, quando vuoi, perché puoi recuperare tutti i podcast di questo programma, dove adesso comincerà un momento che a molti è noto, a chi ci segue da un bel po' di tempo, e per alcuni sarà nuovo. È il momento, Alvise Favotto, di darci tanti spaventi, perché devi dirci i contatti e dillo alla tua maniera. Voi vi rendete conto, vero, che è settembre e quindi si avvicina il periodo in cui voi vi sedete nel vostro campo di cocomeri e aspettate che il grande cocomero scenda a portare regali a grandi e piccini. Ma cosa succede? Il grande cocomero normalmente non si materializza nel vostro orto di cocomeri. Allora chiamateci allo 0421 56 0993 e voi, da bravi Linus, potete sedervi in mezzo alle vostre zucche e, mentre Terzariol fa una musichetta tipica che campiona da Star Wars, Favotto, vestito da grande cocomero, scende a piombo come l'integerrimo Pessotto nel vostro campo di cocomeri e vi regala tanti tanti regali finché non atterra al suolo con disastrosi risultati. Questo risultato lo ottenete anche come? Faxandoci allo 0421 560994. Le utilità di un fax non sono a noi note. Se non volete mandarci un bollettino medico a noi intestato con un certificato di morte per i sottoscritti Favotto e Terzariol, esatto, mandateceli insieme come gemelli siamesi, per cortesia, sarebbe bellissimo. Se invece non avete neanche voglia di sporcarvi le mani con dell'inchiostro, mandateci una neutra email all'indirizzo radio@radiosandona.it. Altrimenti collegatevi a tutti i nostri indirizzi internet. Comincio io con la sbobba settimanale: www.musicforyouth.wordpress.com, il blog dal quale potete scaricare tutte le puntate in podcast, quelle arretrate della stagione passata andatevele ad ascoltare, e tutte quelle nuove che vi beccherete per l'anno, perché noi siamo 24/7. Era quello che volevo dire, bravissimo. È week fino a Eva, vai a prenderlo, e maggio, prendilo. Giugno. E quindi, prima di consigliarvi la lettura di Charlie Brown come oppio per i poveri e per i popoli, io vi ricordo anche che siamo in Facebook con un gruppo numeroso di persone che probabilmente non ci hanno mai visto in faccia e quindi non si domandano come mai. Numeroso a dir poco, ormai siamo a 2200 persone. Pensa. La prima più immotivata è la seconda, che è più immotivata è la terza, figurati la 2200. La 2200-300esima io la vedo assolutamente disperata. Comunque, niente, Music for Youth on air, sì, è l'indirizzo in Facebook. L'indirizzo, cioè ci cercate scrivendo Music for Youth, YOUTH on air, per i non anglofoni. C'è anche il lato B-side, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, musicforyouth.tumblr.com. Non ci dilunghiamo nelle spiegazioni perché il tempo stringe e noi stiamo per passare alla traccia successiva. Però vi promettiamo di farvi vedere un po' di Charlie Brown e un po' di grandi cocomeri. Sì, carichiamo il grande cocomero sul nostro lato B-side, per cui andatevelo a beccare. Ecco la prima cosa che faremo quando torniamo a casetta. Io pensavo anche di andare in bagno, ma un po' mi scappa. Comunque, Arcade Fire The Suburbs. Sì, è la traccia che porta il titolo dell'omonimo album che è stato licenziato agli Arcade Fire 2 mesi fa, più o meno. È un concerto che tutti dicono abbia veramente meritato a Bologna, all'Idei a Bologna. Purtroppo io non c'ero e quindi posso solo parlare per sentito dire, ma se ne dicono grandi cose. A me gli Arcade Fire piacciono più o meno dal loro debutto. Perché voglio dire, chi non vorrebbe una donna violoncellista, diciamoci la verità. Pensavo solo per il fatto che avessero chiamato loro CD Funeral, che ti piacesse per quello. Beh, quello è il motivo principe. Ma poi hai una moglie violoncellista, la fai suonare, santa pace. Il secondo CD si chiama invece Bibbia al Neon, Neon Bible. Esatto, infatti è il classico momento in cui tu apri la Bibbia e fa un po' e poi inizia a vedere le parole. E adesso invece è stato licenziato la Suburbia, The Suburbs. Esatto. Questa è una celebrazione dei non luoghi, se vogliamo darci una definizione alla Marc Augé, e beccati la citazione culturale. Vabbè, insomma, comunque io non l'ho colta, se qualcuno mi può spiegare poi qui, fatemi dei gesti. Allora, The Suburbs... Sì. Un ottimo CD, lo vogliamo ricordare non una, non due, ma ben tre volte, un così Favotto CD. Intanto prende il tempo e per che cosa dire. Beh, io posso dirvi che cosa. Che sono figli della New Wave tarda anni 70. Sì, però hanno un loro contenuto personale che pesca anche nel folk dal mio punto di vista, e quello si può anche vedere da... il tipo di strumenti utilizzati e dalla varietà dei suoni che ci presentano e da come il suono evolve da un album all'altro. Questi bei ragazzi ci ricordano anche i Television, un po' David Bowie e i Blondie, e anche i Talking Heads. I Talking Heads sicuramente sì, ma secondo me il cantato è più melodico e molto probabilmente più ascoltabile. Tutta questa commissione di generi vogliamo andarcela ad ascoltare? Assolutamente sì. Presentali tu, Favotto. Grazie mio caro. Questi sono i Sobborghi, gli Arcade Fire, 97.8 Radio Sherwood, 102.2 Radio San Donato. Grab your mother's dei canadesi come le tende sui 102.2 di Radio Sandonai, sui 97.8 di Radio Sherwood. Questi erano gli Arcade Fire originali di Montreal. Adesso, come ogni volta, questo programma volge al termine. Si spegne come i lumini quando si esauriscono. Come Welby quella volta. Chi è Welby? Non lo vogliamo dire, no. Anche perché non vogliamo toccare le tematiche veramente assurde, perché devi sempre tirare fuori questa sorta di coniglio del cappello, un coniglio tra i più brutti che io abbia mai visto. Esatto. Per le prossime volte evitiamo, che poi la gente si spaventa e non ci ascolta più. No, poi la gente... già stiamo col morto in casa, come si vuol dire, alla canna del gas. Poi ti ci aggiungi te con queste cose di pessimo gusto. Questo amore alla canna del gas, come diceva la Nannini. Allora, l'ultimo pezzo, come è di tradizione, sarà un po' più calmo e tranquillo, introspettivo, placido come Domingo o come Michele. Esatto. Saluti a tutte e due. Sì, speriamo che si incontrino e si parlino. E se Dio ha voluto che si accoppino. Poi te la prendi con me quando cito Welby, però, voglio dire. No, beh, siamo al momento dei saluti. Adesso tocca agli Psap, che sono l'ennesima prova di quanto variabile sia questa trasmissione dal punto di vista delle sonorità. Sì. In realtà volevamo dare in questa prima ora di trasmissione l'idea a chi ci ascolta per la prima volta di che cosa si può beccare nel corso della nostra programmazione. E quindi un combinato di elettronica, indie, wave, qualcosa di rock, un qualche cosa di punk, ma anche il dream pop più adolescenziale possibile. Ne sono stata una prova i Beach House, o ne sarà una prova gli Psap. Esattamente. Un duo un po'... Un duo innanzitutto multinazionale, se sì. Si può dire, perché un duo... Un tedesco e un inglese. Un tedesco e un inglese sono su un aereo con un italiano. L'italiano sì, cerca un finestrino da bucare per buttarsi e causare dei problemi all'aereo, mentre loro due suonano anche i sedili dell'aereo, perché sono dei polistrumentisti veramente di un certo calibro. Cioè, questi ragazzi, tra l'altro ragazzi che stanno insieme, sono anche questi Latosa, Galia, che salutiamo anche lei, e Lometto, Karim, il tedesco, anche se mi dava l'idea di uno che può stare solo sulla copertina di Novella 2000. Galia e Karim è un porno anni 80 di quelli da poco. Quelli però. Proprio di bassa lega. Questi bei ragazzi che si sono congiunti nel 2002, sì. Provenendo da due diverse case discografiche, sono caratterizzati da un'incredibile varietà di suoni e rumori provenienti sì. da giocattoli, pupazzi di gomma, strumenti per bambini, tra cui lo xilofono, e più in generale qualsiasi oggetto che faccia rumore, come dicevamo prima, il sedile dall'aereo che, fa voto, tu ci eri seduto sopra pochi giorni fa, in quanto appena tornato dall'Inghilterra. Sì, e vi posso dire che il suo rumore lo fa. Lo fa. E potremo proporre un campionamento del sedile dell'aereo agli Psap per il loro nuovo album. Penso lo licenzieranno fra un annetto o due, perché hanno appena fatto uscire il loro ultimo lavoro, del quale per l'ennesima volta non ricordo assolutamente il titolo. Ma guarda, tu stai guardando un grosso punto di domanda nero davanti a te. E però vi invitiamo a scriverci a radio@radiosandona.it e dirci come si chiama l'ultimo album degli Psap. Anche i primi ditecelo, perché anche quelli, cioè, siamo abbastanza ignoranti. Noi sappiamo che l'album dal quale è stata estratta la traccia che andremo ad ascoltare, la traccia si chiama High. L'album è The Only Thing I Ever Wondered. L'unica cosa sulla quale mi sono sempre posto delle domande è il fatto di perché tu sia in vita, no? Sì, quella anche... è la mia cosa nei tuoi confronti, poi non so la tua nei confronti della mia, ma presumo stiamo sulla... più o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sì. È arrivato il tempo dei saluti. L'idea su che cos'è questa trasmissione Music for Youth ve l'abbiamo data, quindi gli indirizzi in internet ve li abbiamo dati a loro volta. Non ci resta che dire che ci sentiamo sulle frequenze di Radio Sherwood il martedì alle 17:30 in pieno orario d'ufficio, per voi che prendete la macchina e state comodamente sdraiati in tangenziale in attesa che il camion davanti a voi posizioni un triangolo mobile. Esatto. Mentre su Radio Sandonà 102.2 siamo già più in orario da seduta orizzontale a letto, ossia alle 22 del mercoledì, in replica il lunedì successivo alle ore 21. Stai tranquillo che siamo giunti alla fine, come qualsiasi bella cosa, per cui è arrivato il tempo veramente di salutare. Favotto, A risentirci la prossima settimana. Grazie mille. Presenta tu questa traccia mentre io alzo i gain. Questi sono i PSAP, questa è AI, e un grosso saluto da Daniele Terzariolo, Elvise Favotto e tutta Music for Youth per voi, i PSAP. Prossima settimana, ciao. Because I'm counting, a funny feeling says I won't.